alta voce. Andrea Pennacchi legge Il sergente nella neve di Mario Rigoni Sterna. Tredicesima puntata. Che giorno sarà oggi? Vedo che c'è un bel sole, che il cielo è rosa. Sembra una di quelle giornate di marzo che preannunziano la primavera. Giornate piene di speranza. Ci fermiamo, c'è una breve sosta. Con Turna, Antonelli e Chizzarri canto in piemontese, all'ombra d'un cespuglio, bella pastora che dormiva. Cantiamo tranquillamente e con convinzione. E non siamo pazzi. Cammina, cammina. Ogni passo che facciamo è uno di meno che dovremmo fare per arrivare a Baita. Attraversiamo un villaggio più grande dei soliti e con qualche casa in muratura. Si vede che ormai usciamo dalle steppe. Ci stiamo addentrando nell'Ucraina. Ogni tanto un soldato corre in una casa e ne torna fuori con un favo di miele biondo. Un soldato del mio plotone ha portato a Cenci un secchio pieno di latte e miele. Cenci beve avidamente. Si direbbe che la bevanda, appena penetrata nello stomaco, si tramuti subito in sangue. Ne bevo anch'io. La strada è fiancheggiata di isbe per chilometri, ma la maggior parte delle isbe sono chiuse. In quelle aperte non si trova niente. In lontananza risuonano spari. Possono essere partigiani e affretto il passo lungo la colonna per raggiungere la mia compagnia. Mentre passo, vengo insultato e un ufficiale di artiglieria dice: sempre così di questi sbandati, sempre i primi ad arraffare, sempre gli ultimi dove c'è da combattere. Egli mi dà uno spintone. Son del Vestone, gli dico. Sto cercando il mio plotone, mi chiamo Rigoni. Rigoni tu? Dice l'ufficiale e ride. È un sottotenente del gruppo Vicenza che mi ha conosciuto in Albania. La colonna si è fermata. Il maggiore Bracchi e altri ufficiali che sono in testa vengono investiti da una raffica di mitra. Un ufficiale di artiglieria è ferito un piede. Bracchi mi grida di portare avanti la pesante. Da un cortile spariamo ai russi che passano di corsa davanti a noi. Di fianco alla mia pesante è piazzata una vecchia Fiat azionata dagli artiglieri. Sparano bene anche loro. Nel cortile vi sono molti ufficiali superiori che ci osservano. Mi sembra di essere agli esami di caporale e divento rosso quando l'arma, sprofondando nella neve, mi sposta il tiro e spara troppo corto. I russi scendono in una balca e si dileguano. Nell'isba vicina è sdraiato sul tavolo il tenente ferito. Lo trovo che scherza con gli altri ufficiali e anche il generale. Una donna russa porta caffè a tutti e ne dà una tazzina anche a me. Pure la raffica di mitra deve essere partita da questa stessa casa. Il grosso della colonna si ferma nel villaggio e noi del Vestone, con una batteria alpina, proseguiamo verso un altro villaggio situato a destra sopra una mugila. Vi arriviamo che è notte. Vi entriamo con precauzione a squadre distanziate e prendiamo posto nelle isbe. Siamo comodi, un plotone per isba e il mio, da 50 uomini, è ridotto a meno di 20. Troviamo patate, miele, galline. Ci prepariamo la cena spensieratamente. Avremo una buona serata, quel che sembra, e potremo anche fare una buona dormita. Rino è in un'isba vicino alla mia, con altri paesani. Renzo, Adriano, Guzzo. Il loro reparto è stato aggregato al mio battaglione, in sostituzione di una compagnia rimasta prigioniera. Tornando dalla visita che faccio loro, trovo la cena quasi finita e la paglia già stesa per il riposo. Un giovane russo dai lineamenti del viso delicati e nobili si dà attorno per aiutarci. Porta dentro legna da ardere, porta fuori tavole, panche per far posto, prepara ciotole e cucchiai. Cammina, sciancato e curvo, con le mani che quasi toccano terra e ride continuamente. Mentre l'osservo mi si avvicina Giovanina a dirmi sottovoce: «Sergente Maggiù, qui fuori c'è la paglia piena di armi!» Esco a vedere. È proprio vero. Sotto un pagliaio vicino all'isba trovo fucili automatici e bombe. Quando rientriamo, il giovane sciancato è scomparso. I miei compagni dicono che deve essere un partigiano in gamba. Viene il 26 gennaio 1943. Questo giorno di cui si è già tanto parlato. È l'aurora. Il sole che sta sorgendo dal basso orizzonte ci manda i suoi primi raggi. Il biancore della neve e il sole abbagliano gli occhi. Abbiamo con noi dei panzer tedeschi. Una slitta fugge veloce in lontananza. Da un carro tedesco partono alcuni colpi e la slitta salta in aria. Ci fermiamo più avanti ad aspettare il grosso della colonna. Affacciandoci da una dorsale vediamo giù un grosso villaggio che sembra una città, Nikolaevka. Ci dicono che al di là c'è la ferrovia, con un treno pronto per noi. Saremo fuori dalla sacca se raggiungiamo la ferrovia. Guardiamo giù e sentiamo che questa volta è veramente così. Intanto il grosso della colonna si avvicina a noi. Nel cielo appaiono tre enormi aeroplani, anzi quattro, e si abbassano a mitragliare i nostri compagni. Vediamo le fiammelle che escono da tutte le armi di bordo e la colonna che si sbanda e si sparpaglia. Gli aeroplani risalgono la colonna e poi si allontanano e ritornano ancora a mitragliare e vanno in giù verso la coda che come una linea nera si perde nella steppa. Dicono e continuano a dire che a Nikolaevka vi siano state tre divisioni di russi. Ma a giudicare da come le cose si svolsero io credo di no. Il Vestone, il Valchiese, l'Edolo, il Tirano devono andare all'attacco. La nostra artiglieria si è piazzata. Il colonnello e il generale consultano le carte e quindi chiamano a rapporto i comandanti di battaglione. Noi del Vestone dobbiamo attaccare a destra. Il luogo di ritrovo è la piazza davanti alla chiesa. Preparazione di artiglieria non se ne può fare perché vi sono poche munizioni. I bravi artiglieri sono desolati. Ritrovo Rino. Lo saluto come se si fosse sulla piazza del nostro paese. A stasera, gli dico. Saluto gli altri paesani. In gamba, ragazzi, dico loro. E conservate sempre la calma. Con cenci e moscioni fumo l'ultima sigaretta. Il capitano ci osserva uno per uno. E infine ci muoviamo. Il mio plotone è l'ultimo a destra. Il capitano è tra il mio e il plotone di cenci. Poi vengono gli altri. Come usciamo allo scoperto, siamo subito accolti da colpi anticarro e da colpi di mortaio. I miei uomini esitano, si tengono indietro. Vi è già qualche ferito e grido: avanti, avanti, venite avanti! Anch'io esito un poco, ma ormai ci siamo dentro e sarà quel che sarà. Il capitano grida: avanti, avanti! I miei compagni cominciano a seguirmi e Antonelli e qualche altro mi sorpassano. Ho con me la pesante, ma non abbiamo munizioni. Dovrebbe portarne giù la squadra di Moreschi, ma Moreschi ha un po' paura e i suoi uomini sono come lui. Lo chiamo: venite giù, venite avanti, ormai è tutto lo stesso. I colpi arrivano attorno a noi, sprofondando nella neve. Si continua ad avanzare. Il capitano impugna un mitra russo, indicando il paese, grida: avanti, avanti! In questo momento penso con accoramento a Rino e guardo dove sta scendendo il suo reparto. Ora sparano anche con le mitragliatrici. Le pallottole si infilano miagolando nella neve, accompagnandoci passo per passo. Qualcuno tra noi è colpito e si abbatte gemendo nella neve, ma non si può nemmeno fermarsi a vedere chi è. Grido di sparpagliarci, ma è inutile, perché quando il pericolo è maggiore viene naturale il contrario. Il capitano mi grida di portarmi più a destra, in alto. C'è una leggera depressione da superare. Così formiamo un bersaglio nitidissimo, con il sole in faccia ed infilata alle mitragliatrici. Vedo Cenci accasciarsi sulla neve, sento che dice forte: mi han ferito a tutte e due le gambe! Due alpini del suo plotone lo riportano indietro. Dovranno risalire allo scoperto fin dove è la colonna. Chissà se arriveranno vivi. Ma aveva la pelle dura Cenci e l'ho ritrovato sei mesi dopo in Italia. Il caporal maggiore Artico prende subito il comando del plotone e davanti a tutti grida: secondo e terzo plotone, avanti! Un'arma automatica mi ha preso di mira, spara raffiche brevi e precise. Ecco, penso trattenendo il fiato, adesso muoio. E trattengo il fiato, adesso muoio. Mi allungo in un piccolo avvallamento nella neve, le pallottole battono lì attorno sollevando spruzzi. La saliva mi si impasta in bocca. Non so che cosa penso, che cosa faccio. Guardo gli spruzzi di neve a un palmo dalla mia testa. Antonelli e qualche altro mi sorpassano a 10 metri. Allora mi alzo e vado ancora avanti. Guardando a sinistra vedo il reparto del genio muovere all'assalto di un cannone anticarro che sparava su di noi. Dopo un lancio di bombe a mano e una breve mischia, il cannone è preso. Quei genieri hanno lo slancio dei primi combattimenti. Sarà perché non ne hanno avuti prima. Io invece mi sento tanto vecchio di guerra al loro confronto. Ci avviciniamo alla scarpata della ferrovia dietro cui sono trincerati i russi. Col mio plotone stringo verso il centro. Trovo il sergente Minelli del plotone di Moscioni. Perde sangue da varie ferite leggere alla testa e alle braccia, ma ha le gambe fracassate da un colpo anticarro. Si lamenta e piange. «El Meschet», dice. «El Meschet». Gli faccio coraggio come posso. «Non sei grave», gli dico. «Animo, Minelli, dietro vi sono i portaferiti. Ti verranno a prendere». So che mentisco. Chissà dove diavolo saranno i portaferiti. Forse lassù a vedere come andrà. Ma Minelli mi crede. Mi saluta, mi sorride anche tra le lacrime. Io vorrei fermarmi con lui, ma non posso. I miei uomini mi aspettano alla scarpata e Antonelli mi chiama. Minelli riprende a dire il mio bambino!» E piange. Spariamo dall'orlo della scarpata. Moscioni ha imbracciato il mitragliatore e spara. Spariamo anche con la pesante a dei russi che si ritirano. Ora, qui dietro, possiamo tirare un po' il fiato, ma siamo in pochi. Guardando per dove siamo scesi, si vedono tante macchie nere sulla neve. Ma so anche che nella mia compagnia ve ne sono che si sono finti morti per non venire all'assalto. Ora bisogna uscire dal nostro riparo. Inastiamo la baionetta. Il capitano controlla il funzionamento del suo mitra russo, soffia nella canna e poi mi guarda. «Coraio, paese!» mi dice. «L'ase l'ultima!» ci dà gli ordini. «Tu, Rigoni, vai con i tuoi uomini per quella strada. Tu», dice poi a Moscioni, «vai in un primo tempo con Rigoni e poi gira a sinistra all'altezza di quell'isba. Pendoli, con il plotone comando e Artico con il secondo e il terzo vengono con me. Andiamo!» Scavalchiamo la ferrovia. Siamo accolti da qualche raffica, ma ci buttiamo giù per l'altro versante. Io non incontro molta resistenza. Il capitano con i suoi due plotoni ne incontra di più, ma poi cedono anche quelli. Alla mia destra noto dei russi vestiti di bianco, ma non me ne curo e continuo ad andare avanti. Ora spara anche la nostra artiglieria. Vedo russi che corrono attraverso la piazza del paese. In una delle prime isbe lascio i feriti. Vi è una donna russa e la prego di averne cura. Inoltre lascio con loro ad assisterli Dotti della squadra di Moreschi. Con Antonelli e la pesante entro in un'altra isba. Mi sembra un posto ottimo per piazzarvi l'arma. Un soldato del mio plotone mi segue con una cassetta di munizioni. Sfondo una finestra col calcio del fucile e trascino lì il tavolo coperto da una tovaglia ricamata. Sopra il tavolo postiamo l'arma e spariamo dalla finestra. I russi sono a un centinaio di metri di schiena. Li cogliamo di sorpresa, ma dobbiamo fare economia di munizioni. Mentre spariamo, i ragazzini dell'isba si stringono piangendo alle gonne della mamma. La donna invece è calma e seria, ci guarda silenziosa. Durante una pausa vedo spuntare di sotto un letto gli stivali di un uomo. Sollevo la coperta e lo faccio venire fuori. È un vecchio, alto e magro, che si guarda attorno spaurito come una volpe nella tagliola. Antonelli ride. Poi fa il gesto di dargli un calcio nel sedere e lo manda dove è la donna coi bambini. Spariamo qualche raffica a un gruppo di russi che stanno trascinando un cannone anticarro. Non ci restano più che 3 caricatori. Usciamo dall'isba e incontriamo Menegolo, che veniva in cerca di noi con una cassetta di munizioni. Mi irrito perché non vedo comparire Moreschi con le altre cassette. Antonelli e Menegolo postano l'arma all'angolo di un'isba. Io, un po' più avanti, alla loro destra, indico dove devono sparare e sparo con il moschetto attraverso le fessure di uno steccato. Siamo sempre quasi alle spalle dei russi e richiamo loro molto fastidio. Spero intanto che la colonna si decida a scendere da dove l'abbiamo lasciata ferma. Dopo un po' che spariamo, i russi riescono a individuarci e un colpo d'anticarro porta via l'angolo dell'isba a pochi centimetri sopra la testa di Antonelli. «Spostiamoci!» gli grido. Ma Antonelli si mette a cavallo del treppiede e dice «Adesso li ho proprio di mira!» e spara ancora. Il tenente Danda, con qualche soldato della 54, credo, vuole attraversare la strada e venire dove siamo noi. Ma da una casa vicina partono dei colpi e rimane ferito un braccio. La nostra artiglieria non spara più da un pezzo. Avevano pochi colpi, li avranno sparati tutti. Ma perché non scende il grosso della colonna? Che cosa aspettano? Da soli non possiamo andare avanti e siamo già arrivati a metà del paese. Potrebbero scendere quasi indisturbati, ora che abbiamo fatto ripiegare i russi e li stiamo tenendo a bada. E invece c'è uno strano silenzio. Non sappiamo più niente, nemmeno degli altri plotoni venuti all'attacco con noi. Compresi gli uomini del tenente Danda, saremo in tutto una 20. Che facciamo qua da soli? Non abbiamo quasi più munizioni. Abbiamo perso il collegamento con il capitano, non abbiamo ordini. Se avessimo almeno munizioni... Ma sento anche che ho fame.